Sono passati più di 20 anni da quando Paolo VI, con l'enciclica Umane Vitae, ha affrontato il problema della contraccezione dal punto di vista cattolico. A tutt'oggi il problema è in discussione e, a quanto ne so, è ancora ben lungi dall'essere risolto. Certo, qualche passo avanti è stato fatto da quando la Chiesa ammetteva solamente il coito interrotto, e da almeno 10 anni a questa parte la dirigenza cattolica, attraverso le associazioni controllate e collegate, fa propaganda a tutta una serie di metodi che vengono presentati come contraccezione naturale. Lo scopo è ovviamente quello di mostrare una Chiesa che, irremovibile sul principio della difesa della vita biologica, ammette tuttavia qualche possibilità di soluzione per quello che molti vivono come problema. Ovviamente una posizione come questa è molto soggetta a critiche, perché ad un'affermazione perentoria fa seguire, con alcuni sottili distinguo, la sua negazione, però ha l'indubbio vantaggio di far apparire la Chiesa meno reazionaria di quanto in effetti sia. Per inciso, la posizione è perfettamente in linea con la gnoseologia cattolica del ragionamento per comparti che non vanno mai raffrontati fra loro. Il raffronto porterebbe inevitabilmente ad eliminare le aporie e con esse molte delle visioni teologiche del cattolicesimo. In ogni caso, quella della contraccezione naturale è un'invenzione degna di nota e di analisi. Cosa sia contraccezione penso sia abbastanza chiaro per tutti, ma cosa diventi quando viene qualificata come naturale non è così scontato, perché naturale può essere inteso in diverse maniere e in quasi tutte affiancato a contraccezione dà luogo a significati di senso compiuto. Potrebbe voler dire che la contraccezione di cui si parla non è soprannaturale o miracolosa, ma sebbene tutti siano dispostissimi a credere ad una tale affermazione, dubito sia questa l'accezione da intendere, quantomeno perché dal punto di vista di chi rappresenta Dio in terra suonerebbe un tantino stonata. Potrebbe anche voler dire che quella naturale è una contraccezione ovvia o addirittura spontanea, e sostenerlo chiamando a testimoniare migliaia di coppie a cui manchino un lavoro, una casa, o che attendano che lui sia chiamato di lì a poco a compiere il servizio di leva o quello civile sostitutivo. Ma non penso sia questo il senso che aveva in mente l'ignoto autore dell'espressione, perché in questo caso l'assunto iniziale sarebbe proprio quella separazione tra eros e procreazione che la dirigenza cattolica fatica tanto ad inghiottire. Probabilmente l'accezione che in origine si voleva comunicare con quel naturale è quella che la contrappone ad artificiale. Dunque, contraccezione naturale, cioè scevra da artifici o strumenti che possano in qualche modo turbare il rapporto. Il problema in questo caso è rappresentato da tutti quegli artifici che i metodi compresi in questa dizione impongono, perché operazioni come l'esame del muco, il rilievo della temperatura basale o il calcolo del ciclo mestruale con un'approssimazione di tutte le possibili variabili mi sembrano operazioni che con la naturalezza dei rapporti abbiano ben poco da spartire, e francamente trovo alquanto difficoltoso contrapporre a queste operazioni degli artifici altri. Oltre a ciò, va detto che l'astinenza, periodica, programmata o totale che sia, vista da vicino mostra dei grossi limiti alla sua naturalità, perché se quello della procreazione è un istinto che si manifesta nell'attrazione erotica, il definire naturale la sua repressione porterebbe necessariamente a definire innaturale l'istinto stesso, e qualunque cosa voglia dire innaturale avrebbe comunque una serie di conseguenze sul piano ideologico e sociale che è ben difficile valutare compiutamente. Provate per esempio a pensare ai servizi di sostegno a maternità e prima infanzia in un'ottica del genere ed avrete un'idea del terremoto che questa concezione potrebbe provocare. Ora, dopo aver escluso che il naturale della contraccezione possa essere quello logicamente contrapposto a naturale, a strano o ad artificiale, restano ancora due possibili accezioni. Il naturale come sottolineatura di freschezza e genuinità, che è sempre buono per gli slogan ma non c'entra niente, e quello genericamente contrapposto all'innaturale. Però il problema è che da quest'ultima contrapposizione non deriva alcuna limitazione di senso, né per un termine né per l'altro. Naturale e innaturale diventano insomma significanti e senza significato, parole che riportano gli echi di accezioni differenti senza identificarsi con alcuna di esse. L'unica soluzione che riesco ad ipotizzare per questo piccolo mistero consiste nel collegare il possibile significato al soggetto che ha coniato l'espressione, intendendo semplicemente per contraccezione naturale quella ammessa dalla Chiesa cattolica e per innaturale quella che la Chiesa stessa non ammette. La cosa curiosa è che di contraccezione nella Bibbia se ne parla una volta soltanto, nel capitolo 38 della Genesi, narrando la storia di Er e Onan, figli di Giuda, fatti morire da Dio in quanto rei di aver praticato proprio quel coito interrotto così caro alla contraccezione naturale cattolica. Barangoda, to that yes, holy away.